cosa accade dietro le quinte di Radio Meridiano 12, che succede in una normale giornata di lavoro. Per farvi respirare la magica atmosfera di questo luogo, ci siamo affidati a chi vive a stretto contatto con noi tutti, ma proprio tutti i giorni. Giorgio, alias il tecnico. Ascoltiamo la sua vita da Meridiano. Brontolo, lascia stare Pisolo che dorme. Non lo svegliare. Che bella. Cenerentola con quella scarpetta. Quanto sei bella. Ciao fatina turchina. Non ti prometto, no, non dirò più bugie. Non dico più. Bianconiglio, che vuoi? Bianconiglio, lasciami dormire. Che c'è? Sveglia, fannullone, sono le ore 5:20. Devo andare in radio. Presto, doccia. Ah, gelata. Un doppio caffè. Subito, in macchina. Ah, arriva il treno. Ti pareva, la metropolitana strapiena. Ah, sono arrivato, finalmente. Benvenuto a Radio Meridiano 12. Da oggi tutti noi ci sintonizzeremo su di te. Auguri! Ma che cosa vorrà dire? Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle. Giorgio, sì? Ascolta, non vorrei disturbarti, ma forse c'è un piccolo problema al microfono. Sì, infatti mi sta dando delle violente scariche elettriche. Giorgio, di la verità, tu sai dove sono le mie interviste? Veramente... Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro. Pronto? Giorgio? Sì? Avrei bisogno di montare il servizio in modalità quadrifonica per domani. Insomma, è possibile? Giorgio, scusami, potresti dirmi per quale motivo il computer non si accende? E poi mi dici perché il telefono non funziona? E poi perché la luce è spenta? Una alla volta per Non so che mi succede oggi, non me ne va bene una. Nessuno che si fa intervistare, è il minidisc che non registra. Che vita groma! Giorgio, hai per caso l'indirizzo mail del Papa? Mi serviva perché dovrei mandargli le foto del giro tondo che abbiamo fatto a Piazza San Pietro. Giorgio, sì? Ho un piccolo problema. Si è spento il computer e devo finire il servizio per domani. Dammi un consiglio, comincio a urlare o resto calma? Senti Giorgio, ci sarebbe da prendere la posta e pagare il giornalaio. Ci vai tu? Sì. Vorrei un mix fra la mia voce e quella dell'intervistato che si uniscono in un unico abbraccio vocale molto in voga nella radiofonia bulgara. Ah, Giorgio, visto che stai andando via, potresti buttare l'immondizia. Grazie, sei davvero un ragazzo d'oro. Giorgio, aspetta! Solo tu puoi aiutarmi! Ho le doppie punte! Dillo a Sambuca che in un'altra vita faceva il parrucchiere delle dive. Per oggi va bene così. Testo redatto dal nostro tecnico Giorgio Pezza e interpretato dallo staff. Un saluto a tutti i coraggiosi tecnici di Radio Meridiano 12. Lo sappiamo che ci adorate!